possibilità di capire altro. Per me lui, il fatto di essere diventata mamma ha avuto una grandissima importanza e quindi in qualche modo farglielo arrivare. Poi a lui non gliene frega niente, perché io gli ho anche detto: vedi, guarda, ti ho scritto questa cosa nel disco, perché tanto quando gli capiterà sto disco in mano, quello lo vedrà, dirà: oddio, questa è mia madre, lo metterà da parte. E lui mi ha guardato un po', sì, un pochino emozionato, poi ha detto: vabbè, ora giochiamo. Quindi poi è tutto relativo, no? Magari non gli capiterà il disco tra le mani, perché magari i CD non ci saranno più. Tu come la vedi l'evoluzione? Beh, io vedo che comunque la musica gira di più di prima, nel senso ci sono talmente tanti modi per ascoltarla e questo secondo me è buono. L'importante è che venga rispettato il lavoro di chi la fa, però il fatto che ci sia la capacità di sentirsi il pezzo, io mi ricordo che per sentire una canzone mettevo la cassetta nel mio steretto e aspettavo che arrivasse la canzone per registrarmela e poi risentirmela, che era anche bella come cosa da fare, però se avessi avuto modo di sentire quello che volevo quando volevo sarebbe stato stupendo. Ma credo anche che però poi vedo che già sia in Italia, ma partito dagli Stati Uniti, ma anche in Italia il vinile comincia di nuovo ad attrarre anche i ragazzi giovanissimi, ricomincia a essere comprato, a essere apprezzato, quindi forse questa è una fase, è uno dei corsi, o non so se è un corso o un ricorso, questo forse è un corso e probabilmente sarà un passaggio per cui poi però arriverà la voglia di avere qualcosa fra le mani, un oggetto, una foto, qualcosa da toccare e da ascoltare contemporaneamente. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Insieme a noi, Giorgia. Ancora un saluto da Marta Cagnola.